intanto, come dire, noi abbiamo appreso direttamente quello che ci ha toccato in prima persona questa mattina. Adesso nel corso delle ore stiamo ricostruendo, insomma, il quadro complessivo della vicenda. Quindi innanzitutto, come dire, l'occupazione del coordinamento cittadino di Rotta per la Casa di via del Casale del Verode a Tormarancia è stata svegliata all'alba da un'irruzione, insomma, congiunta di Digos e Ross all'operazione che serviva a identificare, a perquisire due alloggi, insomma, di due abitanti di questa storica, diciamo, per quello che riguarda questi ultimi anni, occupazione, e a notificare, come dire, a portare via queste persone per una fotosegnalazione, così ci è stato detto, e a notificare gli ordini della magistratura rispetto alle misure cautelari che in questo caso sono state, come dire, dichiarate in obblighi di firma, insomma, in obblighi di firma, tutto, come dire, connesso ai fatti del 15 ottobre. E per due persone in questo caso specifico a Casale di Merode non sono state trovate perché non si trovavano all'interno dell'occupazione, hanno avuto luogo invece le perquisizioni che hanno portato, come dire, questa solerte operazione così annunciata, insomma, al paese attraverso le conferenze stampa e gli ampi articoli che ne danno reso conto e che stiamo cominciando a leggere, ha portato, almeno per quanto riguarda Casale de Merode, al sequestro di uno zainetto, insomma, non abbiamo capito bene se di Dragon Ball o dell'Uomo Ragno, insomma, questo è quello che hanno rinvenuto, diciamo, sul posto. E poi ovviamente penso che, come i compagni e le compagne della radio e di tutta Italia, stiamo cominciando a ricostruire il quadro della vicenda che dal punto di vista di quello che è accaduto, diciamo, non tanto dell'analisi politica, ormai è chiaro, insomma, ed è pubblicato ovunque, si tratta di 14 perquisizioni avvenute in tutta Italia e, diciamo, di altrettanti misure cautelari, in qualche caso si tratta di domiciliari, in altri di obbligo di firma, tutte connesse alla nota vicenda della imponente, importante manifestazione del 15 ottobre scorso. Questo è quello che è accaduto questa mattina e adesso, insomma, magari insieme a voi forse sarebbe importante cominciare a fare un primo bilancio, comunque una prima lettura di quello che è accaduto. E senti Luca, ma l'accusa qual è? La solita resistenza aggravata? E allora stiamo cercando di capirlo, insomma, perché ovviamente non siamo esperti di diritto, per cui stiamo decifrando gli articoli. Per quello che si è letto sui giornali, le accuse non abbiamo capito, insomma, bene come sono formulate, quindi su questo cercheremo di dare un aggiornamento. Sono comunque molto più gravi, insomma, si tratta di resistenza aggravata e sicuramente anche di devastazione e saccheggio, forse qualche altro reato, ma insomma resistenza pure aggravata e saccheggio e devastazione ci sembrano ovviamente comporre un quadro molto pesante. È chiaro che una delle prime cose che stridono un po' con questo tipo di reati, insomma, per chi ha anche un po' di esperienza, è proprio anche il tipo di misure che sono state prese, insomma, no? Cioè, i reati sono molto molto pesanti dal punto di vista, no, delle possibili condanne, come dire, alla fine dell'iter processuale, mentre, come dire, gli obblighi di firma, no, non rappresentano un po' la stessa proporzione, per cui è come se già venisse fuori un quadro accusatorio debole e il tentativo, appunto, di lanciare questa grande operazione mediatica e, secondo me, politica, visto anche come è stata messa su, diciamo, la conferenza stampa di questa mattina, con la quale mi pare che fra l'altro si dice molto chiaramente che la storia non è finita, insomma. Quindi oltre alle persone che sono state prese e direttamente in piazza nelle strade di Roma in quella giornata, le persone che sono state prese nei giorni immediatamente seguenti alla manifestazione del 15 ottobre, che hanno ricevuto condanne veramente pesanti e sproporzionate e in alcuni casi si trovano ancora in carcere, come dire, la storia continua, e forse questa, come dire, da quello che si legge dalle dichiarazioni della magistratura e anche dello stesso ministro degli interni, mi pare che come dire, annunciano che la storia non è finita, insomma. Sì, in effetti, insomma, come sappiamo, sia gli arresti avvenuti immediatamente alla fine della manifestazione che nei giorni successivi, e adesso con i nuovi provvedimenti a distanza, insomma, di 6 mesi, è un'operazione ovviamente politico-mediatica, perché la Procura di Roma ha sbattuto in carcere ai domiciliari e la magistratura ha condannato giovanissimi compagni e compagne con delle accuse, insomma, risibili, insomma, gente condannata a 5 anni per il reato di resistenza aggravata, e che fa capire che la loro è un'operazione politica di voler spaventare innanzitutto i giovani compagni e compagne che erano scese in piazza quel giorno, perché seppur non avendo costruito un teorema, la procura ha messo in campo, insomma, tutte le sue forze per fare in modo che venissero condannati, come dicevo, compagni e compagne, con un'accusa piuttosto semplice, insomma, no? Con dei risultati veramente assurdi. Ci sarebbe da ridere se non ci fossero persone che si trovano ancora ai domiciliari, uno si trova ancora in carcere, altri comunque hanno l'obbligo di firma e si trovano sotto processo. E continua, ed è ovviamente, leggiamo le dichiarazioni della conferenza stampa di questa mattina, continua questa vera e propria caccia alle streghe volta a spaventare chi è sceso in piazza quel giorno, e ha continuato a farlo contro questo governo Napolitano Monti. E ovviamente volevo commentare un po' con te le accuse che escono fuori sui media ancora una volta contro il coordinamento di lotta per la casa, che come sappiamo è una struttura politico-sociale di lotta importantissima in questa città, che ha sempre messo in crisi i veri e propri meccanismi del potere, degli accordi tra le giunte comunali e i palazzinari, che non ha mai risparmiato né le giunte di centrosinistra né tantomeno quella di destra portata avanti da Alemanno, e che ogni buona occasione i media, sia quelli di centrodestra e centrosinistra, cercano di criminalizzare, di colpevolizzare al fine di, come dire, rendere meno offensivo l'operato del coordinamento di lotta in questa città. Sì, io devo dire, magari, come dire, le mie valutazioni sono ancora approssimative, perché sto leggendo come voi ora quello che viene annunciato, che rappresenta un po' il segno politico di questa operazione. Devo dire, al di là dei giudizi anche negativi, ovviamente, per quello che rappresenta la nostra esperienza da questo punto di vista, è vero che oggi scadevano in questo periodo diciamo, i primi 6 mesi, insomma, dalla vicenda del 15 ottobre, e quindi un pezzo importante probabilmente di indagini andava portato alla luce proprio in questa fase qui. Però è chiaro che oggi c'era uno dei primi scioperi, anche se indetto ovviamente dal sindacalismo confederale e dal nostro punto di vista debole sui contenuti, per cui non lo so, insomma, anche questo potrebbe essere, come dire, un timing, una tempistica non casuale. Sicuramente non è casuale, il tipo di composizione che hanno, diciamo, questi, hanno avuto queste perquisizioni e questi arresti e misure cautelari, diciamo, in questo momento, perché da una parte, come dire, c'è il mondo ultras, il tentativo probabilmente di dipingere, no? La vicenda del 15 ottobre e gli scontri come una rabbia cieca in politica. Da questo punto di vista c'è ovviamente, come sempre, il tentativo di colpire il mondo anarchico, o dico per quello che viene definito, insomma, e raccontato dai protagonisti di questa vicenda repressiva. C'è, ne è immancabile, qualcuno, come dire, che aveva già avuto qualche condanna per gli incidenti in Val di Susa, quindi il NOTAV, no, che non poteva mancare in questo quadro di repressione, no, che compone appunto un attacco di carattere politico. E c'è l'attacco forte all'esperienza del coordinamento cittadino di lotta per la casa. E mi pare in alcune dichiarazioni anche si torna sul laboratorio Acrobax. Evidentemente si tenta, come dire, di colpire, di dare un quadro di questa vicenda per quello, come dire, che fa più comodo in termini repressivi. Si tenta soprattutto di colpire, secondo me, nel caso della lotta per la casa, alla radice alcune esperienze di lotta che rappresentano, come dire, dentro questa realtà degli esperimenti di resistenza, ma anche dei tentativi di mettere in discussione quegli interessi forti che governano lo sviluppo delle nostre città, che la realtà romana è un esempio chiaro da questo punto di vista, ma sono sempre più gli interessi delle banche e delle grosse lobby finanziarie. Evidentemente, come dire, queste esperienze di lotta vanno colpite perché rappresentano la possibilità di auto-organizzarsi e di provare in maniera concreta e reale a cambiare il destino delle proprie vite e dello sviluppo delle città, della società dentro la quale ci costringono a vivere. È chiaro che più queste esperienze sono auto-organizzate, più decidono da loro il loro destino, meno si infilano dentro compromessi e processi di scambio di carattere politico o elettorale, probabilmente più danno fastidio, insomma. Quindi questa almeno è la mia lettura soggettiva. Non saremo probabilmente i soli, non siamo stati i soli ad essere colpiti dalle tante vicende repressive di questi anni, però, come dire, il sapore di questo passaggio, così anche come viene annunciato e raccontato, ha secondo me queste caratteristiche. Quindi attorno a tutti i compagni e le compagne colpite da queste vicende e alle esperienze coinvolte dentro queste vicende, sicuramente chiederemo nella città di Roma e nel paese, come dire, di stringersi anche attorno ad un movimento che nella città di Roma, come in altre città, rappresenta, come dire, anche una forma di contropotere, un qualcosa, come dire, che dice che i nostri bisogni, i nostri diritti non si possono sempre calpestare. Quindi questa è un po', diciamo, la prima analisi che mi sento di fare, di mettere in campo e anche di provare magari a condividere con voi e con gli ascoltatori. Eh sì, anche perché poi c'è una sorta di doppio binario dell'azione da parte di magistratura e forze di polizia, nel senso, ci pare, insomma, che da un lato qualsiasi cosa si muova venga tacciata appunto di violenta, intollerante, paraterrorista, e dall'altra però ci sono anche tutte quelle protagoniste del 15 ottobre, per esempio giovani, giovanissimi, che spesso, insomma, come erano scese in piazza, non dico per la prima volta, ma giù di lì, che sono state pesantemente represse dalla magistratura e che vengono ficcati anche loro, anche chi magari spesso e volentieri non ha un passato di militanza politica, se non altro per la giovanissima età, all'interno di questo calderone in cui qualsiasi cosa si muove deve essere considerato puramente e semplicemente come qualcosa che dà fastidio al manovratore, e quindi bisogna fermarla il prima possibile. No, io credo che le vicende repressive di questi ultimi anni rappresentano un crescendo preoccupante, e queste ultime vicende rappresentano anche un tentativo di difendere politiche come quelle del governo Monti, che in continuità sicuramente con i governi che l'hanno preceduto, però rappresentano anche un'accelerazione, un imbarbarimento ulteriore di quelle politiche liberiste, di annientamento dei diritti, insomma, che ovviamente con le quali facciamo i conti da 20 o 30 anni oramai. Per cui sicuramente bisogna capire come muoversi dentro una realtà nuova in cui la questione della repressione, i termini anche autoritari all'interno ai quali si riorganizza un paese intero, l'assetto istituzionale, rappresentano sicuramente qualcosa di nuovo e di ancora più preoccupante rispetto a quello che abbiamo ben conosciuto in questi anni, in questi decenni. E secondo me è evidente che riconoscere il fatto che in occasioni come quelle del 15 ottobre si manifesta, viene fuori una rabbia diffusa che in realtà è presente nelle nostre città e nel paese, che fa i conti con la devastazione sociale che viene prodotta, con la precarietà, con la crisi sempre più forte, vorrebbe dire dichiarare il fallimento proprio delle politiche di cui abbiamo parlato fino a poco fa. Bisogna provare a indicare, come dire, dei colpevoli tra virgolette di quello che accade, i professionisti, no? Quasi dello scontro e della politica, e soprattutto approfittare di tutto questo per colpire appunto quelle soggettività e quelle esperienze di lotta che dichiarano in maniera aperta e radicale, si organizzano, che bisogna cambiare, sul serio. Per cui credo che ci sia tutto questo dentro queste vicende, ma non viviamocele come qualcosa che si è chiuso. Qui le vicende non solo giudiziarie ma anche quelle politiche e sociali evidentemente sono in profondo e rapido mutamento. Credo che dobbiamo ragionare e capire, come dire, come si riesce a tenere il passo di tutto questo e quindi rilanciare sicuramente i nostri percorsi di lotta per i nostri diritti, i nostri percorsi di liberazione. Troveremo anche le forme, immagino, di raccoglierci, insomma, e di ragionarci non soltanto attraverso questo importante megafono e strumento che è Radio Onda Rossa, ma anche direttamente, e da là provare a capire come ripartire e rilanciare i nostri percorsi. Sarà importante e necessario farlo presto, farlo in fretta e farlo con grande determinazione e lucidità.